innanzi sta ruga c'è, ho in asfunto nera, iettare ci la voglio, ho in a canzuna, iettare ci la voglio, ho in a canzuna, c'è una donna come, ho in a bannera, chi la governa lui sulle la luna, chi la governa lui sulle la luna, quando si curca non c'è volumera, cacculli carni sue, salurra sua, cacculli carni sue, salurra sua. Oi, quanto è bella sta figlia e Massaro, tanti capella che na figlia d'oro, tanti capella che na figlia d'oro, casi la vidi oi, c'è chi luteraro, fa gire la ravetta, oi cuno giuono, fa gire la ravetta, oi cuno giuono. Amaro io che signo e core lontano, sento la ravettella e ci me muoro, sento la ravettella e ci me muoro. A faccia bella mia, oi ressa finerra, ietta menu garofa, oi resta grasta, ietta menu garofa, oi resta grasta. Si mi lui e Dio, me tu volesto, per non carire in terra, si no se guasta, per non carire in terra, si no se guasta. E mi lo stipo per la meglia festa, caro falu d'amore, tanto basta, caro falu d'amore, e tanto basta. A buonanotte t'arugno cantando, e te saluta Dio, Parma d'argento, e te saluta Dio, Parma d'argento. Stati buona gioiuzza, io mi ne vaio, addio quanto fa giorno, un mo te vio, addio quanto fa giorno, un mo di vio.